Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo insieme una nuova giornata. Insieme a me Daniel Lumera, che è un riferimento internazionale, come sapete, della scienza, del benessere, della qualità della vita, nonché direttore della fondazione My Life Design. Daniel, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Iniziamo la giornata con qualche riflessione. Stiamo vivendo un momento difficile, complesso, sfidante. Partiamo da qui. Dal mio punto di vista, quello che sta accadendo in questi giorni, al di là dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica, a mio parere apre uno scenario esistenziale e sociale molto più vasto, che riguarda principalmente un cambio dello stile di vita, della relazione con se stessi e con gli altri, anche con la natura. E soprattutto della comprensione dell'interconnessione, no? Un nuovo livello di consapevolezza. Io credo che sia il momento di farsi delle domande molto importanti. La prima fra tutte è come devo cambiare il mio stile di vita per poter affrontare al meglio questa emergenza. Esistono tantissime risorse interiori molto importanti che dovremmo prendere in considerazione in questo momento. Io sono rimasto molto stupito in questi giorni perché la maggior parte delle persone si rivolge sempre all'esterno per trovare una soluzione, no? La mucchina, l'antidoto al male, il ricovero. La mascherina, tutte in ina. Mascherina, mucchina, cerchiamo disperatamente una soluzione al problema all'esterno, quando abbiamo delle importantissime risorse interiori che in questo momento dobbiamo necessariamente andare a ripescare. Dobbiamo imparare a stare dentro, a saperci ascoltare, a saperci fermare, e a saper prendere coscienza più profondamente del mondo interiore, delle dinamiche interiori, degli istinti anche primari, di come riuscire a gestire il mondo emozionale, gli istinti primari, le nostre ferite, e soprattutto di come regolare l'aspetto della nostra mente, delle nostre emozioni, perché sappiamo oramai con grande letteratura scientifica che ha un enorme impatto su tutti i processi di infiammazione, sul sistema immunitario e in generale sulla capacità che abbiamo di sostenere lo stress. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Non è facile rivolgere, come dico io, no? Il microfono dentro di noi, perché siamo sempre attivati, sempre in cerca di notizie, di aggiornamenti, una dietro l'altra, non riusciamo a fermarci, non riusciamo a dare il tempo, come proprio sottolineavi tu, alla nostra mente, al nostro cervello, di pensare, di metabolizzare. Abbiamo bisogno anche di silenzio per scegliere, anche per fare dei pensieri che ci portino a delle scelte, ci portino a interiorizzare anche quelle che sono i messaggi, gli insegnamenti di questo momento, e anche per riscoprire, come dicevi tu, le nostre risorse interiori che abbiamo, anche se non pensiamo di non avere. Ma innanzitutto dovremmo chiederci cosa ci sta insegnando questa malattia, anche perché siamo obbligati in questi giorni a fare una cosa che non siamo abituati a fare, cioè fermarci. Questa è la società del fare, no? Del correre, del passare da esperienza in esperienza senza mai metabolizzare e fermarci ad ascoltare. Ed è crescere sempre. Nessuno ha voglia di fermarsi in realtà, e soprattutto nessuno ha voglia di fare un passo indietro, mentre in questi giorni siamo obbligati a rimanere quanto più fermi possibile e isolati possibile. Però questa è un'opportunità, se letta in una certa maniera, importantissima: fermarsi ed ascoltare. Molte persone non riescono a gestire, abbiamo visto, gli impulsi primari come la paura, l'ansia, il panico, l'impotenza che sentiamo, la rabbia. Questo però è un chiaro invito al silenzio, all'ascolto e anche al raccoglimento, e ce lo sta facendo direttamente Madre Natura. Quindi dal mio punto di vista la chiave di lettura è che questo è comunque un momento evolutivo molto importante, e ci sono tre chiavi di lettura. La prima riguarda l'ascolto e la relazione con se stessi. la seconda l'ascolto e la relazione con le persone più vicine a noi, e infine il cambio di stile di vita e l'interconnessione. Però è possibile, ad esempio la meditazione è uno strumento importantissimo in questo momento, in questo passaggio. Allora riprendiamo questi tre spunti che ci hai suggerito, e quindi l'ascolto e la relazione con se stessi. Da che cosa si comincia? Si comincia innanzitutto dal recuperare o dal accedere a quegli strumenti che ci permettono una gestione migliore delle emozioni e della mente. Questo binomio dobbiamo comprendere che l'essere umano è un sistema interconnesso di più livelli, nel senso che le emozioni, i nostri pensieri hanno un impatto sulla biologia del nostro corpo e sul nostro sistema immunitario. Quindi tutte quelle tecniche, quegli approcci come la visualizzazione, la respirazione consapevole, la meditazione possono sicuramente, e la scienza lo dimostra, avere un impatto anche sui geni che causano infiammazione, ma anche su tutti quegli aspetti biologici relativi al nostro sistema immunitario che devono adesso essere potenziati. Per questo parlavo di risorse interiori. Quindi bisognerebbe approcciarsi alla meditazione e all'ascolto, e soprattutto comprendere quali sono quelle ferite emozionali, quelle emozioni primarie che ci dominano normalmente, che non ci permettono di affrontare serenamente questo momento, che anzi aumentano il livello di stress e quindi hanno un impatto negativo sul sistema immunitario. Per chi non ha mai meditato, non sa meditare, non sa arrivare a questo livello di raccoglimento, quale strada suggerisci, Daniel? Sì, basta andare su internet, ci sono tanti tuoi video, e li abbiamo messi anche noi naturalmente sulle nostre pagine, abbiamo fatto un bel lavoro insieme. Io ti ringrazio, e ancora gli ascoltatori ci ringraziano quando vanno sulle pagine e riascoltano i tuoi appuntamenti. Ma Daniel, per chi non volesse andare in cerca di su internet, quale suggerimento puoi dare? Ma in realtà l'approccio è molto semplice, è sufficiente imparare a rilassarsi, e per fare questo è semplicissimo, basta un bicchiere di acqua calda, un po' di musica classica e poi un momento di 10 minuti di silenzio con l'attenzione rivolta alla respirazione, all'aria che entra ed esce dalle proprie narici. Questo semplicissimo passaggio serve per iniziare a rallentare. Non vi sto parlando di stare fermi, ma di essere fermi, uno stato interiore dove, a prescindere dall'uragano esterno, noi riusciamo a rimanere centrati, rimanere in ascolto di noi stessi senza essere preda di impulsi. Sembra facile, descritto da te proprio come bere un bicchiere d'acqua. In realtà dovrebbe essere, magari non è facile, ma sperimentando, seguendo le tue indicazioni, scopriremo che ci viene poi naturale, perché evidentemente abbiamo bisogno di questo, e il nostro corpo reagisce quando gli diamo quello di cui naturalmente ha bisogno e che naturalmente ci chiede, che forse però non siamo capaci a riconoscere. Hai usato una parola chiave fondamentale, è naturale, ed è un qualcosa che questa emergenza ci sta richiedendo, quella di fermarsi ad ascoltare, ed è un qualcosa che o lo facciamo in un modo o lo facciamo in un altro. Quindi io credo che al giorno d'oggi, tra l'altro, noi siamo sottoposti a un bombardamento costante di informazioni, e il mio vuole essere anche un invito profondo al discernimento. Stavo leggendo da poco uno studio del 2008 dell'Università di San Diego in California, e hanno dimostrato come noi ogni giorno riceviamo una quantità di informazioni pari a 34 gigabyte, che sarebbe sufficiente a sovraccaricare un computer entro una settimana. Questo vuol dire che riceviamo circa più di 100.000 parole al giorno. La mia domanda è: siamo biologicamente, oltre che mentalmente, preparati a sostenere questo tipo di sollecitazione? E soprattutto in questo periodo dobbiamo discernere tra quelle che sono le informazioni che sovraccaricano il sistema emotivo e quindi chiaramente la nostra biologia e il sistema immunitario, e quelle che sono invece delle informazioni importanti, però senza arrivare all'estremo. Ci sono persone, lo ripeto, che stanno incollate 8 ore ai social o ai giornali per aggiornarsi sui bollettini. Ecco, secondo me alimentarsi di paura in questo momento non è il caso. La parola chiave dal mio punto di vista è sobrietà, ascolto e silenzio. Grazie a Daniel Lumera per essere stato con noi e per aver iniziato questo nuovo giorno insieme. Daniel, tu adesso inizi la tua meditazione o hai già meditato? Io sto andando adesso per iniziare la mia meditazione. E allora noi seguiremo i tuoi consigli, un bicchiere di acqua calda, della musica classica o della musica che più arriva al nostro cuore, 10 minuti di silenzio. Lasciamo che la nostra mente, il nostro corpo si rilassino, e questa è sicuramente la cura più naturale, più efficace per affrontare anche con l'energia giusta, col passo giusto, questi momenti che sono difficili, ma sicuramente ci lasceranno qualche cosa di utile. Daniel, ti ringrazio per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a voi. E io vi aspetto come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per una nuova diretta Facebook. Buonissima giornata da Nicoletta.